sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia. Questa sera vi tocco io, domani ritorna Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms. Benvenuti dunque a questa nuova puntata di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto si impongono ovviamente dei temi internazionali che incrociano tanto le questioni economiche quanto le questioni geopolitiche. I due temi internazionali che si incrociano in queste ore e che sono oggetto anche di questo Consiglio europeo informale che si sta svolgendo a Bruxelles, adesso non abbiamo idea precisa se sia già iniziato oppure no, perché era in forte ritardo, sono la questione dell'Ucraina e la questione della Grecia. La questione dell'Ucraina, innanzitutto, da un punto di vista strettamente economico. Questa mattina il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha chiarito che arriverà alla stessa Ucraina un altro prestito. Si tratta di 17 miliardi di dollari e lo dico subito perché ho visto girare un po' di notizie non esattamente corrette sui social network. In realtà questi 17 miliardi di euro non vengono dati, come si dice, a babbo morto, nel senso che il Fondo Monetario Internazionale ha previsto esattamente una serie di condizioni che non sappiamo esattamente se siano stringenti come quelle imposte alla Grecia all'epoca, ma sono sicuramente stringenti. Tra questi il blocco dei salari, il blocco delle pensioni, la riforma della pubblica amministrazione, la revisione di tutto il sistema energetico, un programma messo a punto insieme allo stesso Fondo Monetario Internazionale. Poi che questo possa funzionare o no è un altro conto. Detto ciò, non è, ripeto, che sono soldi che vengono dati gratis dal Fondo Monetario Internazionale. Faremo un punto su tutto questo e anche sulla condizione di un paese che vive oggettivamente in un'economia di guerra. Nell'ultimo anno il PIL ha perso l'8%, e tutto questo naturalmente a causa delle tensioni e delle violenze politiche che ci sono state all'interno. La Banca Mondiale ha rivisto a più riprese le prospettive di crescita, è stata costretta a rivederlo proprio per il proseguire della guerra. Gli istituti internazionali lo fanno normalmente anche quando la guerra non c'è, figuratevi appunto con una guerra sostanzialmente in corso nell'est del paese. Si intreccia tutto questo la vicenda greca per una serie di questioni anche politiche, se vogliamo, perché ieri vi abbiamo raccontato ampiamente, tanto nei giornali radio quanto qua in Focus Economia, che c'è stata un'apertura da parte della Russia a fornire eventuale liquidità alla Grecia. Chissà se la Russia in questa fase, in questo momento, ha abbastanza liquidità per sostenere la Grecia, ma questo è tutto un altro discorso. Di certo c'è un incrocio della vicenda ucraina con quella greca, tanto che il nuovo ministro degli esteri greco non ha fatto mai mistero, e anzi l'ha detto pubblicamente, che la Grecia è contraria all'approvazione di nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Quindi, come vedete, le due cose si tengono insieme. Di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione. Nella prima parte ci occuperemo invece di cose più prettamente italiane. La prima, anche qua, sono notizie che si mettono insieme e che riguardano tutte lo stesso mondo, ossia il mondo delle banche popolari. Come sapete, come vi abbiamo raccontato, ieri è stata commissariata la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio per una serie di motivi, tra cui il principale che ci sono 3 miliardi di crediti deteriorati. E però ci sono altre questioni che riguardano le popolari in queste ore. Innanzitutto l'indagine aperta oggi dalla Procura di Roma, dopo le dichiarazioni del presidente della Consob Vegas, che aveva parlato di movimenti sospetti nei giorni precedenti l'approvazione del decreto che imponeva alle prime 10 banche popolari per dimensione l'abolizione di fatto del voto capitario, ossia una testa e un voto, il passaggio a al voto normale, come in tutte le società quotate, insomma, più azioni hai e più valgono i tuoi voti, più voti hai, insomma, molto, molto detta molto semplicemente e molto brutalmente. Ci sono stati dei movimenti sospetti, ha detto Vegas, che quindi vanno verificati e devono essere oggetto di approfondimento. Tra questi si segnala, o meglio, quelli sospetti, diciamo, tra i movimenti particolari e particolarmente forti, si segnalano proprio quelli sulla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che nei giorni precedenti il decreto è quella che ha guadagnato di più, ha guadagnato il 57%. Ora, naturalmente, la vicenda ha un suo taglio politico, se vogliamo, perché il vicepresidente di questa banca è il padre del ministro delle riforme, Maria Elena Boschi. C'è questa questione, c'è il nuovo filone di indagine aperto ieri su UbiBanca, che è la principale banca popolare del paese, quindi, come vedete, di carne al fuoco ce n'è oggettivamente tanto, il tutto in ore nelle quali le banche stanno sostanzialmente tutte approvando i conti. Considerate che il commissariamento della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio è piovuto esattamente mentre il CDA stava approvando i conti del 2014, e quindi dovranno saranno i commissari a mettere le mani in questi conti. L'altra vicenda italiana della quale ci vogliamo occupare è la Robin Tax. Come avete visto e sentito, la Robin Tax, che è di fatto un aumento dell'IRES per le società petrolifere ed energetiche in genere, è stata dichiarata incostituzionale esattamente ieri. Però la Corte Costituzionale che cosa ha detto? Ha detto è incostituzionale da adesso in poi, e però nei 5 anni precedenti la retroattività non vale. Diciamo che la retroattività sarebbe stata un dramma, perché lo Stato probabilmente avrebbe dovuto restituire una discreta quantità di denaro, insomma, non so se siamo nell'ordine dei 10 miliardi, ma probabilmente, insomma, più o meno su quelle cifre, 7, 8 miliardi, qualcosa di questo genere. È interessante però cercare di capire perché la Corte Costituzionale abbia deciso che una tassa è incostituzionale e poi però sia stata valida per i 5 anni precedenti. Ad aggiungersi a tutto questo c'è da capire il futuro, perché si prevede 1 miliardo di euro di incassi da questa tassa, e quindi bisogna capire il governo, lo Stato, da dove andrà a ricavare questo 1 miliardo di euro che, a budget fatto, insomma, legge di stabilità fatta, dovrà reperire in qualche modo. Queste le notizie principali di oggi, o almeno le notizie che approfondiremo. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Come sempre, iniziamo dalle notizie in breve di oggi. Sull'Ucraina vedo che stanno già arrivando molti sms. Dico ad Ulisse, forse si sta spingendo troppo in là, dice, vediamo un po'. L'Ucraina è in guerra, non ha i soldi, l'FMI le dà i soldi, l'Ucraina compra armi occidentali. Sinceramente mi sembra spingerci un po' troppo in là. Credo che quei soldi servano soprattutto all'Ucraina per tenersi in piedi, più che per comprare armi. Di certo le spese militari in questi mesi sono naturalmente aumentate moltissimo, ma non poteva essere diversamente. Iniziamo dalle materie prime, come sempre l'oro in lieve rialzo, 1221 dollari l'oncia, Per quanto riguarda il petrolio, oggi ci sono segnali di rialzo anche abbastanza consistente. Il WTI, quello quotato a New York, è arrivato a guadagnare un 4,6%, adesso guadagna il 2,25%, quello con consegna a marzo, mentre il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra, guadagna il 3,22. Siamo rispettivamente a 49,9 dollari al barile e a 56,42. Dell'Ucraina abbiamo detto, maratona notturna di 13 ore, accordo raggiunto, ve l'ha raccontato anche il giornale radio, e estensione del pacchetto di aiuti che con i 17 miliardi e mezzo di dollari arrivati adesso, che arriveranno adesso, arrivano a 40 miliardi di dollari. Così come vi abbiamo detto, il vertice europeo, che in realtà non è, sta iniziando in questi minuti. Ci sono le dichiarazioni del premier greco Alexis Tsipras: sono molto fiducioso che troveremo una soluzione accettabile per tutti, per mettere fine all'austerità e far tornare l'Europa sulla strada della coesione sociale. Siamo a dichiarazioni prevertice, naturalmente. Detto ciò, oggi la borsa di Atene è andata bene, ha chiuso guadagnando circa il 6%, perché si è sentita la parola compromesso dalla bocca di Angela Merkel e i mercati si sono eccitati. Altre voci che sono circolate è che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il livello dell'ELA, l'Emergency Liquidity Assistance, ossia l'assistenza per la liquidità d'emergenza da fornire alle banche greche, e c'è stato un no comment sulle voci di una teleconferenza a proposito di questo. Ci sono da registrare anche le dichiarazioni del governatore della Bank of England, Mark Carney, il quale dice che l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe meno grave per la Gran Bretagna che nel 2012, seppur sempre negativa. E visto che siamo sulle banche centrali, abbiamo anche la Svezia che entra nel giro del quantitative easing, lotta alla deflazione attraverso acquisti di attività una volta esaurita la leva dei tassi di interesse. La Riksbank ha tagliato a meno 0,10 il tasso di rifinanziamento, lo manterrà a quel livello fino a quando l'inflazione non si avvicinerà al 2%, e l'istituto centrale comprerà 10 miliardi di corone di bond governativi. E poi ci sono i nostri di bond, i nostri BTP. Il Tesoro ha venduto 2 miliardi e mezzo del BTP triennale a gennaio 2018 ad un tasso al minimo record, 0,44% dallo 0,61 di gennaio. Minimo storico anche per i 15 anni, i titoli al marzo 2030 al 2,10%. Per rimanere sull'Italia, c'è qualche aggiornamento dal mille proroghe, per ora piuttosto scarno. Questa mattina si era parlato della possibilità di un nuovo intervento sugli sfratti. Il ministro Lupi ha chiarito che non ci sarà nessuna proroga o mini proroga degli sfratti. Si sta studiando una norma che tuteli i nuclei familiari che rientrano in quei casi di sfratto per fine locazione di particolari categorie di inquilini. Immaginiamo quelli con maggiori difficoltà economiche. Immaginiamo però. Governo e maggioranza sono ancora al lavoro sulle frequenze TV, un tema che aveva sollevato polemiche tra PD e Forza Italia per sospetti di ritorsione dopo la rottura del patto del Nazareno. L'intervento riporterebbe il canone su valori in linea col 2013, dopo che una delibera Agcom del settembre 2014 aveva concesso uno sconto a Rai e Mediaset. Ma forse questo nel mille proroghe non entrerà. Notizie della Procura di Milano che ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni e per altre 7 persone per la vicenda della presunta maxi tangente algerina da 198 milioni di dollari. La richiesta di processo riguarda anche Eni e la sua controllata Saipem, imputate in base alla famosa legge 231 del 2001 che appunto permette di portare in giudizio anche le società. Abbiamo parlato di banche popolari, ci arriveremo tra un attimo, sarà il nostro argomento di apertura. A questo, al sistema bancario italiano, sono dedicati anche i 100 secondi dell'economia, quelli che in collaborazione con RDS, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Parliamo di banche. È stato lo stesso Renzi oggi a dover intervenire per spiegare che le banche italiane sono solide, e in gran parte è vero, ma in queste ore ci sono diverse partite che rischiano di creare confusione sul settore. C'è una prima partita sulle banche popolari, sono oggetto di una riforma radicale per cambiare la governance, bloccata finora da lobby di sottogoverno, e favorire ormai le aggregazioni per aumentare l'efficienza dell'intero settore. Su questo c'è pure il sospetto di speculazioni da insider trading e non a caso indaga la Procura di Roma. Oggi poi ci sono 16 banche commissariate dalla Banca d'Italia per gravi lacune nella patrimonializzazione. L'ultima è Banca Etruria, appunto un'altra banca popolare. Del Monte dei Paschi, cenerentola del settore, da qualche tempo si è scoperto che ha una perdita superiore alle attese e dovrà mettere in campo un aumento di capitale fino a 3 miliardi. Carige, altra banca da rimettere in assetto con una probabile fusione, ha una perdita di 543 milioni. Il Banco Popolare ha fatto pulizia sui crediti e ha ora un rosso per 1,9 miliardi. Biper ha deciso di tagliare 130 filiali e di ridurre del 5% il personale. Unicredit e Intesa sono colossi ormai che hanno messo a segno brillanti performance di bilancio e sono in grado di competere nel mondo. Le banche italiane, dopo gli stress test della BCE, che ora vigila su gran parte del settore, insomma stanno rimettendo a posto i conti con fatica. Non è sbagliato pensare in questo momento a una bad bank che possa raccogliere la gestione delle partite difficili. Oggi ci sono 180 miliardi di prestiti in sofferenza e 330 miliardi di crediti deteriorati. Per consentire alle banche quindi di concentrarsi sulle azioni di supporto alla crescita e agli investimenti. L'importante è che questa operazione sia ben congegnata e non configuri un regalo al settore. È difficile, ma non è impossibile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eccoci al primo argomento di giornata, che sono esattamente le banche popolari. Facciamo un accenno anche a Monte dei Paschi, molti di voi ce lo chiedono naturalmente, non vi preoccupate, ci siamo. Di questo vogliamo parlare adesso, del sistema bancario italiano, soprattutto le difficoltà di una parte del sistema bancario italiano, oltre che delle inchieste giudiziarie che si stanno aprendo in queste ore. Carlo che ci scrive... Può darsi che vada così la vicenda della Robin Tax, che finirà che per ripianare il miliardo di euro aumentino le accise sulla benzina. Di solito avviene, insomma. Speriamo di no. Per aggiungere, avete sentito Alberto Rioli che parlava di Carige, leggo un'agenzia di Radio Core battuta in questi minuti perché ci sono le slide di presentazione dei risultati 2014, i crediti di Carige classificati come incagli e sofferenze sono cresciuti ulteriormente nell'ultimo trimestre del 2014, siamo a un lordo complessivo di oltre 6 miliardi. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, ciao Fabio, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a te, agli ascoltatori. Sembra una sorta di manovra a tenaglia, qualcuno ha scritto, no? Beh, un bollettino di guerra. Da una parte la magistratura, dall'altra il decreto del governo. No, allora spieghiamola bene. La Procura di Roma oggi ha aperto un'inchiesta e questo è un atto dovuto, perché quando il presidente della Consol l'altro ieri dice nella sua relazione che sono stati movimenti anomali sulle popolari con dei profitti, come dire, ingiustificati per circa 10 milioni di euro, è ovvio che la procura apre un'inchiesta. Infatti il fascicolo a carico di ignoti, perché c'è un'apertura di un fascicolo. La Consola, devo dire, io ho letto la relazione e soprattutto la parte tecnica, la Consul in effetti ha fatto un grosso lavoro e paradossalmente più che la Banca Etruria, che è quella sotto il mirino, ma semplicemente perché è il padre del ministro Boschi, è vicepresidente della banca, poi parleremo del commissariamento. Cioè, non lo è più in realtà. Non lo è più, infatti, oggi proprio... hanno chiuso e forse è arrivato un po' troppo tardi il commissariamento, poi spiegheremo perché. Ma in realtà nella relazione Vega sottolinea almeno tre situazioni molto anomale di guadagni plurimilionari sul Banco Popolare, la BPM di Milano e la BIPER. Allora, perché anomali? Perché sono situazioni in cui c'è un acquirente che lavora tramite un intermediario italiano o straniero che compra, guarda caso, tra la settimana precedente, cioè il decreto viene reso di fatto noto il 16, la sera del 16, il rialzo bomba dei titoli popolari avviene il lunedì 19. Ovviamente se tu hai dei movimenti anomali, cioè degli acquisti intervenuti in una settimana che va dal 9 al 16 di gennaio, evidentemente qualcuno sapeva del provvedimento del governo, perché tu non compri il giovedì o il venerdì 15 o il giovedì 15 e rivendi il lunedì 19, perché se rivendi il lunedì 19 vuol dire che evidentemente stai speculando alla grande, cioè quello, e hai goduto di un'informazione privilegiata, perché la tempistica lì è determinante, cioè se tu hai comprato 24 ore prima, 48 ore prima, e parliamo di importi rilevanti, sul Banco Popolare ad esempio il profitto in 48 ore è stato di 3 milioni e mezzo di un solo intermediario, quindi c'è stato un soggetto fisico. Questa solo la plusvalenza, i 3 milioni sono solo la plusvalenza. Cioè, l'operazione più grossa individuata è quella sul Banco Popolare, che ha portato nell'arco di 48 ore 72, cioè gli acquisti fatti 14-15 gennaio, venduti il 19, quindi a decreto oramai noto e quindi sull'onda del boom, quella sola operazione ha garantito a quell'intermediario e quindi a chi ha dato l'ordine all'intermediario 3 milioni e mezzi di profitti in una sola operazione. Ecco perché Vegas dice che i movimenti anomali ci sono stati, perché ovviamente non è casuale che uno compri due giorni prima del decreto e poi rivenda il giorno in cui le banche che salgono. Più incontroverso spiegare se c'è stato insider trading per chi ha comprato prima e però ha conservato la posizione, perché in genere tu fai la speculazione vendendo a chi compra dopo di te, cioè il meccanismo dell'abuso di mercato è: io compro prima, ovviamente a prezzi bassi, so che il titolo salirà, a questo punto quando il titolo sale perché entrano i piccoli azionisti, io vendo a questi piccoli azionisti e realizzo nell'arco di poche ore una plusvalenza che realizzerei altrimenti in un anno. Ecco perché la procura apre l'inchiesta. Sarà poi tutto da dimostrare se chi ha operato l'ha fatto perché è baciato dalla fortuna o perché era in possesso di informazioni. Per come ho visto cose di insider trading, evidentemente quel fatto non è casuale, nel senso che evidentemente qualcuno ha avuto un'informazione prima e l'ha usata artatamente. È in discussione anche il ruolo di Davide Serra, che è un finanziere anglosassone molto vicino a Renzi. Serra dice: io ho da oramai molti mesi una posizione forte su un'unica banca popolare italiana, una posizione intorno al 3-4%, quindi molto rilevante. Si pensa che sia il Banco Popolare, però non penso che un finanziere arguto come Serra si metta a speculare, questa è un'opinione del tutto personale, avendo una posizione che ha accumulato nell'ultimo anno, si metta a fare, in borsa la chiamano la mosconata, per farsi poi beccare. Però ripeto, sarà la magistratura evidentemente. Naturalmente, immagino la stessa cosa. Il clamore mediatico è perché appunto sull'Etruria, che ha avuto un rialzo più consistente, però l'Etruria è anche quella il cui rialzo si giustificava proprio perché era la banca più malata. Cioè io compro la banca allora, più malata. Io su questo ti fermo un attimo, Fabio, perché ci prendiamo una pausa. E sulla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, sulla quale naturalmente ci sono molti sms, e voglio chiarire all'ascoltatore che ci sta scrivendo, che accusa, poi questa è quasi un luogo comune questa espressione, che dice pennivendoli, non è che abbiamo detto che visto che era vicepresidente solo fino a ieri, adesso non è più vicepresidente, non abbiamo detto che il papà di Maria Elena Boschi, insomma, è stato vicepresidente per 3 anni, esatto, dal 2011, è stato vicepresidente. quindi ha assistito al declino e al dissesto della banca. Perfetto. Lo possiamo dire tranquillamente. Esatto, quindi l'abbiamo detto adesso, punto e basta. Cioè, quello che ci interessa da questo punto di vista è capire un po' in che condizione è questa banca, e lo faremo tra un attimo. Il resto starà naturalmente alla magistratura a stabilirlo. Rimettiamo un po' d'ordine, va, rimettiamo un po' d'ordine, rispondendo anche a qualche sms, così riprendiamo, rinquadriamo la cosa. Ma se fosse stato il padre di una leghista, sarebbe finito così in fretta il vostro commento? Sì. Altro sms: scusate, ma da quando speculare è illegale? L'insider trading purtroppo è tutto da dimostrare, e infatti è esattamente quello che abbiamo detto due minuti fa, lo dovrà dimostrare la magistratura, lo dovrà dimostrare la Consob. Ancora, all'ascoltatore che ci dice che abbiamo fatto, qua nessuno ha fatto insinuazioni sul padre di Maria Elena Boschi, e agli altri ascoltatori che lo scrivono, non abbiamo collegato le colpe del padre con la figlia, semplicemente ci sono stati degli attacchi al ministro Maria Elena Boschi. Perché? Perché dato che fa parte del governo, governo che ha deciso un provvedimento, che ha preso un provvedimento che è price sensitive, cioè ha avuto un impatto sui prezzi delle banche popolari, sull'andamento in borsa delle banche popolari, qualcuno ha detto occhio, perché c'è un collegamento tra un membro di questo governo, che sia la Boschi o che sia qualcun altro, non ci interessa, e il mondo delle banche popolari. Ci sta spiegando Fabio Pavesi poco fa che in realtà i movimenti più grossi in quest'indagine della Procura di Roma e soprattutto nel documento della Consob risultano essere su altre banche, e che i movimenti sulla Popolare, Etruria e Lazio, poi sarà tutto, ripeto, da appurare dalla magistratura, sono quelli forse più giustificabili, proprio perché la Popolare, Etruria e Lazio è quella forse, mi sembra di capire Fabio, ridotta peggio, sì, e quindi che è più la preda più probabile. Esatto, diciamo di solito così. Quando tu sai che c'è un provvedimento per cui una banca può comprarsi un'altra, tendi a comprare la preda, non il predatore, perché ovviamente la preda si viene acquisita. Etruria stava per essere comprata l'anno scorso dalla Popolare Vicenza, che ha offerto un euro per azione. L'Etruria, nel cui CDA c'era il padre del ministro Boschi, rifiutò quell'offerta, e lì fu un atto grave, nel senso che avevi la possibilità di vendere la banca, che già era messa male, poi spiegheremo che era messa male da troppo tempo, forse Banca d'Italia è arrivata con un red d'azione, ma è arrivata forse anche tardi. Banca d'Italia che aveva fatto essa stessa pressione perché... Banca d'Italia perché... faceva pressione perché si sposassero, ha sanzionato per 2 milioni e mezzo l'intero CDA 6 mesi fa per irregolarità nella gestione, e è arrivata a commissariare nel pieno di un CDA sul bilancio la banca. Quindi la Banca Italia teneva sott'occhio Banca Etruria da molto tempo, anche perché Banca Etruria, e lì la responsabilità della gestione sta anche in capo al papà del ministro Boschi, al di là dell'insider trading, è quello di aver assistito, tra virgolette, in modo impotente al dissesto di una banca. Cioè l'Etruria ha accumulato crediti malati in modo vertiginoso dal 2011. Allora, i crediti malati netti erano 1 miliardo nel 2011, salgono a 1,4 miliardi nel 2012, salgono a 1,6 miliardi nel 2013. La banca quindi si vedeva che era in difficoltà già 3 anni fa. Cosa fa il vertice della banca? Anziché dichiarare che ha forti difficoltà, tenta di mascherarle. E cosa fa? Compra massicciamente BTP, cioè avevano 2 miliardi di BTP nel 2011, arrivano a possederne 7,7 miliardi nel 2013. Cioè la banca, per tentare di occultare il fatto che aveva imbarcato sofferenze pesanti, anziché fare un'operazione di pulizia già allora, tenta di mascherare lo stato di salute comprando vagonate di titoli di Stato che gli garantivano ricavi, perché faceva utili da trading. Ma se tu Compri 7 miliardi di BTP e sei una banca che ha un attivo di 14, tu non fai più la banca, fai la banca di investimento, quindi è un mestiere molto comodo, una via d'uscita, chiamiamola se, troppo semplice, che ha solo rimandato l'emersione dei grossi problemi della banca. Qui va imputata la responsabilità al vecchio CDA, che è stato pure sanzionato, tant'è che Banca d'Italia, vedendo questo ammontare gigantesco, ha detto l'anno scorso: voi dovete vendere metà di questi BTP perché non potete accumularne così tanti. E lì è caduto, e lì il re è diventato nudo, perché non avendo più ricavi da trading nei BTP e aumentando i crediti hanno accumulato perdite gigantesche, nel senso che quest'anno avevano già 120 milioni di perdite, e probabilmente Banca Italia, che è intervenuta ieri, è intervenuta in un CDA che doveva fare pulizia su questi crediti malati, avrebbe portato una perdita milionaria per 200-300 milioni per una banca che già nel 2011 aveva perso 200 milioni. Col trucchetto dei BTP limita le perdite nel 2012 a 70 milioni, quindi sembra che stia rimettendo in carreggiata. In realtà era una sorta di artificio gestionale. Tu compravi titoli per mascherare il fatto che vi hai dato male i crediti, perché quando tu arrivi ad avere 3 miliardi di crediti lordi dubbi, 1 miliardo e 6 netti, hai patrimonio per 500 milioni, tu hai dato male il credito. Sì. Questa è la responsabilità dei banchieri che hanno gestito il vertice, quindi compreso il papà del ministro Boschi, per dirla tutta, e quindi sì, noi non mettiamo niente. Adesso basta però, no, con beh, però con il CDA è stato multato da Banca d'Italia e adesso il CDA dice: andate tutti a casa, la Banca d'Italia. Allora, brevemente, chiuso e chiarito il capitolo Etruria, brevemente l'indagine su UBI, che cosa, sì, che cosa riguarda? Lì è un problema di voto di delega, cioè viene accusato sostanzialmente Bazzoli e altri che nella formazione delle liste, questo è il problema delle popolari, purtroppo le azioni si contano, non si pesano, nel senso che io posso avere un'azione, posso possederne un milione, il mio voto vale come quello che possiede un milione di titoli. Questo finisce per creare delle liste dove i sindacati tra l'altro hanno un ruolo molto forte nelle popolari, si creano queste liste che tendenzialmente rappresentano poco l'intero azionariato e quindi si prestano sostanzialmente a giochi in cui una piccola minoranza finisce per governare. L'accusa della procura, tutta da dimostrare, è che nel gioco delle liste ci sia state falsificazioni delle deleghe di voto, proprio perché non tutti partecipano all'assemblea e quindi raccoglie delle deleghe. Se tu conti una testa a un voto, più deleghe raccogli, più evidentemente la tua volontà la puoi far prevalere. E quel meccanismo del cosiddetto voto capitario, che non piace a Banca d'Italia, non piace al governo, non piace agli investitori, perché di fatto sembrano banche democratiche dove appunto una testa a un voto, ma in realtà poi l'assemblea è partecipata dal 2% degli azionisti, che si coalizzano e spesso nominano un vertice che viene assolutamente scollegato dalla base, perché non hai elementi di controllo, non hai un investitore istituzionale che ha messo molte azioni, quindi pesa e ti controlla nella gestione. La popolare di Lodi Fiorani è l'esempio più eclatante. Lì governava Gian Piero Fiorani come un grande feudatario, ha fatto il brutto e il cattivo tempo senza che nessun organo di controllo potesse interferire. La Banca Popolare di Spoleto è stata commissariata, adesso arriva l'Etruria. Voglio dire, abbiamo casi di banche, anche le SPA sono messe male, perché Monte dei Paschi e Carige sono SPA e sono messe male pure loro. Però il modello della governance popolare sembra un modello apparentemente democratico, che però rischia di poi creare gruppi di potere minoritari dentro la banca, che lasciano poi il dirigente bancario, il capo della banca, in una situazione di grande governo monocratico. Se il banchiere è bravo le cose vanno bene, se il banchiere è meno bravo le cose rischiano di andare molto male. Molto contento perché vedo via SMS che vi lamentate tutti, quelli che dicono che non siamo stati abbastanza cattivi con il ministro Boschi, e quelli che dicono state esagerando con questo collegamento, perché sapete qual è il vecchio detto, che quando si lamentano tutte e due le parti vuol dire che hai fatto bene il tuo mestiere, almeno per quanto riguarda il nostro. E siete equamente divisi, tra l'altro. Siamo ai mercati che evidentemente vedono qualche spiraglio, soprattutto per quanto riguarda la Grecia. FTSE MIB più 2,13%, FTSE All Share più 2,08%. Bene Parigi più un punto percentuale, Francoforte un punto e mezzo, Londra che guadagna poco, lo 0,07%. C'è questo e naturalmente c'è il fatto che si vede vicina chissà quanto la soluzione di una questione geopolitica importante come quella dell'Ucraina. E così c'è Ocondi, la Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Beh, sicuramente l'annunciata tregua in Ucraina ha galvanizzato i mercati già a partire da questa mattina. Per quanto riguarda la situazione greca, sì, c'è ottimismo, ma c'è comunque una situazione abbastanza fluida, anche se Atene ha chiuso in rialzo, la borsa di Atene, intendo, del 6-7%, trascinata soprattutto dalle banche. Per quanto riguarda invece i listini continentali, abbiamo notato acquisti soprattutto sulle banche, e poi sui settori più esposti alla ripresa economica, come per esempio l'auto, grazie ai conti record di Renault, oppure il cemento. E infatti Buzzi Unicen guadagna il 5,6%. Che ci dici di Monte dei Paschi, che tanto ne chiedono gli ascoltatori? Ma diciamo che è stata una seduta abbastanza interessante quella del Monte, è partita a ribasso, -3%, via via nel corso della mattinata sono arrivati gli acquisti, poi nel pomeriggio un vero e proprio strappo a rialzo, è arrivato a segnare +18%, sospensione, è finita in asta di volatilità, alla fine +13%. Cosa ha influito su questo andamento? C'è chi evidenzia il fatto, la deduzione, che il tesoro entrerà direttamente nel capitale della banca, infatti la banca non sarà in grado di pagare cash gli interessi sui monti bond e quindi dovrà dare azione, di conseguenza il tesoro entrerà con circa il 10% nel capitale del Monte dei Paschi, e questo potrebbe essere garanzia di stabilità. Dall'altra parte c'è anche chi sottolinea che ormai si tendono a eliminare le posizioni corte, cioè le scommesse su una vendita per quanto riguarda le banche italiane, c'è più ottimismo anche per quanto riguarda possibili acquisizioni o fusioni tra le banche italiane, e quindi si scommette anche sul Monte dei Paschi, possibile preda di qualche altro istituto. Che guadagna a fine giornata un 13% dopo una serie di sospensioni in asta di volatilità, come ci dicevi. Intesa San Paolo, ancora banche oggi, Intesa San Paolo +5,08%, Banco Popolare +4,5%. Sì, come dicevamo, si scommette un po' sul settore bancario italiano. Intesa ha dato i conti l'altro ieri, c'è stato un dividendo superiore alle attese di 7 centesimi per azione, anche un ottimo utile netto contabile di 1,25 miliardi e quindi è stato sicuramente premiato. Per quanto riguarda il Banco Popolare, i conti sono di ieri, dopo la chiusura dei mercati, una fortissima pulizia di bilancio con svalutazioni per 1,9 miliardi, ma anche in questo caso comunque che gli acquisti sono legati all'intero settore bancario. Bene anche Fiat Chrysler, vedo +4,5%. Sì, come ti dicevo, ci sono stati i conti di Renault con un utile triplicato a 1,9 miliardi nel 2014, in più i vertici dell'azienda hanno speso parole di ottimismo anche per quest'anno. È chiaro che poi se riparte un po' la ripresa in Europa, il settore auto, essendo ciclico per definizione, non può che esserne beneficiato. A ruota CNH +3,22%, bene anche, lo diciamo, la Pop Milano +3,18%. Popolare Emilia Romagna +3,10%, bene anche nel Green Power +2,7%, Eni +2,5%. Ha qualcosa a che fare tutto questo con la Robin Tax, che poi ne parliamo tra un attimo? Per quanto riguarda nel Green Power, sì, Eni c'è soprattutto il rialzo del prezzo del petrolio, che sta guadagnando più di 3 punti percentuali a New York. Per quanto riguarda la Robin Tax, il grande benefattore, come evidenziano diversi report di analisti, è Terna, che continua il rialzo, oggi guadagna un altro 1,7%. È tornata a un passo da 4 euro. Bene anche Pirelli +2,3%, Saipem +2,09%, ST Microelectronics +2,06%, Tenaris +1,9%, Mediolanum +1,9%, Finmeccanica +1,7%, così come Terna appunto e Jux, 1,5% di guadagno per Mediaset, bene Luxottica altrettanto, +1,38%, Unipolsai, Generali +1,11%, TOTS altrettanto, A2A +1,06%, Moncler +0,94%, Autogrill +0,87%, e andando in fondo al listino abbiamo una Campari che cede l'1,01%. Sì, qui c'è la raccomandazione a vendere da parte di Goldman Sachs. Il titolo è cresciuto molto, più 17% da inizio anno, secondo Goldman Sachs, quindi è tornato a essere sostanzialmente sopravvalutato rispetto ai competitors europei, e quindi c'è l'indicazione a vendere. Torno un attimo sulla Robin Tax, prima ho parlato di Terna come benefattore della Robin Tax, ovviamente beneficiario della, diciamo, dell'abolizione, sì, della Robin Tax. Ovviamente, non ti preoccupare. Infine, tra gli unici titoli negativi sono Campari, come ci dicevi, un meno 1,01%, appunto, c'è Goldman Sachs, un'azienda che viene prevista a far peggio al mercato di riferimento, ma c'è anche Atlantia, un meno 0,61%, ci sono motivi particolari? No, non ci sono motivi particolari, c'è anche Snam che è abbastanza tiepida, fa più 0,09%, in questo caso Snam era molto cresciuta ieri, sempre per l'abolizione della Robin Hood Tax, e quindi oggi, insomma, gli operatori sono stati un pochino più tiepidi. Telecom Italia anche più 0,26%, Ferragamo più 0,42%, Enel più 0,47%, Prismian più 0,48%, Unicredit mezzo punto percentuale di guadagno, World Duty Free lo 0,68%, Azimut lo 0,7%, GTEC lo 0,77%, Autogrill lo 0,87%, gli altri li abbiamo dati tutti. Grazie a Ceo Condina, Radio Cuore, Il Sole 24 Grazie Ore, buonasera. Buona serata. Ragione Cesare da Udine, che dice gli SMS che Barisoni, ma non a caso è il titolare della trasmissione, insomma, no? Avrebbe fatto la battuta con Londra che guadagna lo 0,07%. Buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, insieme fino alle 18.30, parleremo adesso di Robin Tax, poi dopo ci occuperemo di Ucraina e di Grecia, ma prima vi voglio dare una notizia appena battuta dall'agenzia di stampa Radio Cor. La Fininvest, che come sapete è la holding della famiglia Berlusconi, di Silvio Berlusconi, ha deciso di collocare il 7,8% del capitale di Mediaset. Dopo il collocamento scenderà al 33,4%. Notizia che avremo modo di approfondire naturalmente nelle prossime ore. Capire anche a cosa è dovuta questa mossa. La Robin Tax cos'è? Era a questo punto l'addizionale IRES che tocca le aziende petrolifere ed energetiche, istituita nel 2008. L'IRES è l'imposta sul reddito delle società, per chi non lo sapesse, che ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, appunto, ma solo pro futuro, cioè a partire dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza appena depositata. Ci sono due elementi interessanti da questo lato. Innanzitutto il capire perché, se una norma, una tassa è incostituzionale, non sia stata dichiarata incostituzionale fin dall'inizio. E il secondo elemento è da dove lo Stato tirerà fuori questo miliardo di euro che gli verrà a mancare a partire da quest'anno. Insomma, qualcuno già scherzava prima, mentre davamo la notizia via SMS, ci diceva alzeranno le accise sui carburanti. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera Davide. Buonasera a voi. Secondo quale principio, Davide, la Corte Costituzionale ha deciso che, insomma, che fino adesso va bene così, insomma, e lo Stato si tiene i soldi? Sulla base del principio previsto dalla legge 1 del 2012, che ha rafforzato l'articolo 81 della Costituzione. Il nuovo articolo 81 della Costituzione, nei primi due commi, fissa il pareggio di bilancio come vincolo formale, e nel terzo comma definisce un equilibrio finanziario a cui bisogna tendere la finanza pubblica, appunto. Si tratta di una, come dire, sentenza storica, come l'ha definita ieri il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando, proprio perché riconosce le ragioni di un ricorrente, in questo caso il Consiglio di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia, e quindi definisce illegittimo questo tributo perché viola l'articolo 3 e l'articolo 53 della Costituzione, c'è una disparità di trattamento tra diverse aziende anche dello stesso settore diciamo produttivo, ma è solo pro futuro, nel senso che il nuovo articolo 81 rafforzato viene preso molto sul serio dalla Corte e come dire, ha un peso maggiore degli altri, e quindi evidentemente restituire ciò che è stato versato finora avrebbe comportato una manovra correttiva immediata di non meno di 5-6 miliardi. Evidentemente, ecco, questa è un'operazione che per i giudici delle leggi non si deve fare, proprio perché c'è il vincolo di bilancio che noi dobbiamo rispettare. Quindi nello scegliere appunto la prevalenza tra l'incostituzionalità, come dire, di una tassa e il principio costituzionale del pareggio di bilancio, la Corte Costituzionale ha scelto per questa soluzione. Ti chiedo, Davide, a questo punto però manca un miliardo di euro all'appello per quest'anno circa. Sì. Diciamo forse un po' meno, secondo le stime che non ufficialmente ieri sono uscite dal Ministero dell'Economia, circa 700 milioni per quest'anno e 800 per l'anno prossimo, a causa del minor prezzo del greggio e dei minori consumi energetici, ma insomma si tratta comunque di un aggregato di minori entrate di portata decisamente importante, 700-800 milioni sull'anno andranno reperiti da qualche altra parte. Purtroppo non si tratta dell'unica criticità, diciamo, sul quadro di finanza pubblica per l'anno in corso, perché ci sono alcuni punti di debolezza della legge di stabilità proprio sulle entrate che sono state già indicate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e che una delle quali potrebbe, come dire, verificarsi a breve, cioè potrebbe arrivare a breve un no della Commissione europea sulla estensione del reverse charge sull'IVA, cioè il pagamento differito dell'IVA nella grande distribuzione organizzata, che è una misura additiva che è stata introdotta nella legge di stabilità dopo le richieste di rafforzamento da parte proprio della Commissione europea e che dovrebbe produrre un gettito quest'anno di 730 milioni. Ecco, anche quella è una misura molto molto in forse, e se anche quella dovesse essere appunto bocciata, a questo punto veramente sono già 1,4 miliardi solo con queste due cose, insomma. Grazie a Davide Colombo. Vedremo come andrà a finire anche quella vicenda, per capire appunto se il governo, se e come potrà reperire le risorse. Male l'idea di Carlo che via SMS ci scrive: usiamo lo stesso articolo della Costituzione per ridurre i vitalizi. Visto che bisogna tendere al pareggio di bilancio, mi spiace, si taglia il vitalizio e non si può fare ricorso. A Luca da Cagliari, che le devo dire? Oggi la questione della lista Falciani non era al centro della nostra attenzione, ne parleremo, tra l'altro ne parlerà Alessandro Milan domani mattina, se vuole ci mettiamo anche a parlare del conto da $6,500, che non sono, sono 6.000 euro di Pippo, cointestato a Pippo Civati presso l'HSBC, ma insomma sinceramente... Vi dico, guardi, abbiamo intervistato Pippo Civati in effetto giorno, va, si scarica il podcast, ascolta la sua risposta, a me è sembrata abbastanza limpida, poi ripeto, signori, stiamo parlando di cifre pazzesche e questo è un conto da $6,000, insomma, non gli getterei una croce addosso, poi via. Comunque ascoltatelo, perché è una roba in realtà riferita al padre che faceva l'imprenditore, è una storia un po' diversa, Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Saluto anche Luca Pierazzi, partner di Advance Advisor, che è una società di consulenza ed è esperto soprattutto di Ucraina. Pierazzi, buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. Allora, le chiedo, l'abbiamo già accennato in apertura di trasmissione, però dato che già ho visto girare un po' sui social qualcuno che scriveva il Fondo Monetario Internazionale sgancia altri 17 miliardi all'Ucraina a babbo morto, in realtà il Fondo Monetario Internazionale passa questi 17 miliardi all'Ucraina, ma perché si faceva il raffronto con la Grecia, naturalmente, no? Ho visto un po' in giro. In realtà la richiesta è per un programma di riforme piuttosto intenso, che tiene dentro anche riforma della pubblica amministrazione, tutto quello che sostanzialmente abbiamo visto, no? Certo, certamente. Ma oggi mi sembra che gli enti sovranazionali, a cominciare dalla Comunità Europea per finire al Fondo Monetario Internazionale, sono chiamati sostanzialmente a pagare il costo di una crisi che non siamo stati capaci di anticipare e di fermare, e probabilmente un costo molto più alto rispetto a quello che si sarebbe pagato se non si fosse lasciato precipitare il Paese in questa situazione. Costava probabilmente molto meno intervenire prima, ancora ai tempi del governo Yanukovych, con importi più bassi, con tutto quello che è successo, con una guerra civile in atto, con una economia che sta rotolando, una costola del paese che è il Donbass, ormai fuori dal circuito economico, dal circuito produttivo, ricordiamo che è l'area delle miniere di carbone, l'area dell'industria siderurgica, ovviamente dove di siderurgia lì girano solo carri armati in questo momento, quindi non produce assolutamente niente. In questa condizione è ovvio che i costi sono superiori. Si ripete un po' forse quello che è successo anche nel caso della Grecia: bisognava accorgersene prima, pensarci prima, ci sarebbe costato molto meno. Naturalmente. Ed è proprio di Grecia che vogliamo parlare con Vittorio Darold del Sole 24 Ore, appunto, che è in studio con noi, perché è in corso un Consiglio europeo informale che tra l'altro dovrebbe occuparsi anche dell'Ucraina, oltre che di altre questioni che ci stanno molto a cuore, come quella dell'immigrazione e soprattutto della situazione in Libia, che anche quella ha i suoi risvolti economici, ma insomma per oggi la lasciamo un attimo da parte. Oggi Vittorio, la Borsa di Atene ha guadagnato il 6,5%, c'è questa frase che si è sentita Angela Merkel per la prima volta dire la parola compromesso, evidentemente questo ha eccitato i mercati. Voglio capire da te in che stato di avanzamento siamo, se la tua impressione, la persona che legge la situazione della Grecia e i suoi rapporti con l'Unione Europea da un po' di tempo, se questo compromesso del quale ha parlato Merkel ti sembra possibile o le posizioni sono ancora distanti come le abbiamo viste questa notte all'Eurogruppo. No, penso che ci sia appunto una possibilità di un compromesso, perché come ha detto appunto il cancelliere tedesco Angela Merkel, le due posizioni sono distanti, perché la Germania vorrebbe che venisse semplicemente aumentato, procrastinato, rinnovato il piano che scade il 28 febbraio, il 18 febbraio scade invece, la Banca Centrale Europea dovrà decidere cosa fare dei crediti di emergenza che dà alle banche greche, perché ogni due settimane si raduna appunto questo meeting per decidere una serie di misure, fra cui appunto quella. Oggi ha già deciso di portare a 65 miliardi da 59,5, e quindi dà un po' più di ossigeno alle banche greche, che sono quelle più fragili in questo momento. Il vero problema è che il mercato scommette, punta su un compromesso, su una soluzione. È una soluzione semantica, come abbiamo visto anche da questa telefonata che Varoufakis ha fatto per bloccare questo statement finale, che parlava semplicemente di un rinnovo. Ecco, i greci non vogliono parlare di un rinnovo di quello che c'è, vogliono una modifica, una riforma. e ognuno cerca naturalmente di tornare a casa con qualcosa, diciamo, da mostrare al proprio elettorato, perché lo ricordiamo, l'Unione Europea è un'unione di democrazie, non è una federazione, non è un impero, quindi ognuno dei governi va per avere conto di quello che il proprio elettorato ha chiesto, e naturalmente deve tornare a casa con qualcosa. L'austerity deve essere in qualche modo mitigata, altrimenti anche il governo Tsipras potrebbe saltare, potrebbe trovarsi all'angolo e essere costretto a chiedere aiuti a Mosca o a Pechino, come infatti sta facendo. Che è esattamente il tema per il quale, e la questione per la quale abbiamo intrecciato la vicenda ucraina con la vicenda greca, è esattamente questo, perché come abbiamo visto da un punto di vista politico Atene sta facendo un po' questo gioco, cioè da una parte dice a Bruxelles noi siamo contrari a ulteriori sanzioni contro Mosca e contro Putin, e dall'altra parte i ministri degli esteri si incontrano e Lavrov dice ieri se Atene dovesse chiedere denaro, come dire, noi saremmo tutto sommato anche disposti a valutarlo, ammesso naturalmente, questo è una domanda che io volevo girare a Pierazzi, ammesso che in questo momento Mosca ce li abbia i soldi per aiutare la Grecia. Questo è un altro punto, Mosca qualche problemino ce l'ha, ha avuto uno sviluppo economico negli ultimi 20 anni che è stato basato soltanto sull'oil and gas, non ha sviluppato le tecnologie, non ha sviluppato sufficientemente le infrastrutture e quindi ha un impianto economico vecchio che non riesce a stare al passo con la concorrenza economica degli altri paesi. Abbiamo visto che appena il prezzo del petrolio è sceso, l'economia ne ha risentito pesantemente, il bilancio dello Stato in Russia non sarà così florido come negli anni precedenti, deve sopportare i costi delle conseguenze della crisi in Ucraina, perché da una parte gli incassi del gas sono minori, dall'altra parte si deve fare carico di supportare le popolazioni che in qualche maniera ha stimolato a chiedere indipendenza, a ottenere indipendenza rispetto al resto del paese, insomma sta mantenendo il Donbass, sta mantenendo la Crimea, sono costi che si aggiungono a costi in un bilancio che non è così florido, quindi sì, tutto l'ascolto possibile alla Grecia, sicuramente anche alla bisogna qualche aiuto, ma non è che possano togliergli tutte le castagne dal fuoco, molto, molto volentieri, nel senso che se ci rimborsano tutti i soldi che abbiamo prestato alla Grecia, io credo che gli facciamo un monumento in piazza a Putin. Allora, io la ringrazio, grazie a Luca Pierazzi, partner di Advance Advisor, società di consulenza finanziaria, esperto anche di Ucraina e di Russia. Facciamo una cosa, sentiamo anche che cosa ha detto il direttore del Fondo Monetario Internazionale annunciando questo nuovo prestito all'Ucraina, Christine Lagarde. It's a large program, it's ambitious. È un programma molto esteso, è ambizioso, non è esente da rischi. Pensiamo però che contenga linee guida macroeconomiche realistiche e riforme ambiziose che le autorità siano sicure di poter attuare. Le autorità ucraine stanno dimostrando determinazione e coraggio nel portare avanti le riforme, come mai prima d'ora. Un esempio di questa volontà è che non solo hanno raggiunto l'obiettivo del deficit per quest'anno, ma hanno fatto meglio con un risultato migliore delle attese. In secondo luogo, è caduto quello che è stato per molto tempo un tabù in ogni discussione avuta con le autorità del paese. Hanno infatti accettato che il tasso di cambio diventasse flessibile, così da poter usare la politica monetaria per dare una spinta all'economia. Un altro esempio di riforma già avviata che dimostra coraggio e determinazione è aver iniziato ad affrontare i temi della corruzione, del lavaggio di denaro sporco e aver messo in campo misure per rispondere a questi fenomeni. And to actually put in place a framework to that effect. Per chiudere, prima di salutarvi, sono arrivati ancora molti sms sulla vicenda della lista Falciani e del conto cointestato a Pippo Civati del Partito Democratico. Ma guardate, vi ripeto veramente, andate a scaricarvi il podcast di Effetto Giorno, sentite l'intervista, sentite che cosa sostiene lui e poi vi fate un'idea voi, insomma. L'unica valutazione che abbiamo fatto è una valutazione quantitativa, non è una valutazione qualitativa, che $6,000 non sono un conto da 20 milioni di euro. Ecco, molto semplicemente, con una piccola aggiunta e una piccola nota, che tenete presente che di questi conti noi non sappiamo quanti di questi, anche di tutti i nomi che stanno uscendo, ce ne saranno anche di destra e di centrodestra, non sappiamo quanti siano scudati, quanti siano regolari, regolarmente denunciati, quindi massima attenzione, prendete questa lista, leggetela, però con beneficio di inventario, come si dice. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci si sente naturalmente domani con Effetto Giorno alle 13 e per Focus Economia torna Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.